in qual modo si debba prendere parte ai banchetti, contro l'impudicizia delle danze e delle musiche. Stiano lontani dai conviti del Logos le danze sfrenate e le vanità di quelle feste che si protraggono per tutta la notte e menano vanto del vino in eccesso. Queste danze sfrenate, infatti, sono una turbolenza provocata dall'ebbrezza, uno sfogo impulsivo della tensione erotica. E dal coro di noi altri cristiani, queste due passioni irrazionali, l'erotismo e l'ubriachezza, abitano molto lontano. Quanto alle nottate in cui ci si riunisce per bere, esse si accompagnano alle danze sfrenate e all'eccesso del vino, invitano ad ubriacarsi, eccitano il sesso e spingono alle cose più vergognose. È davvero contrario all'ordine, alla decenza e alla retta condotta questo frastuono di flauti, di cetre, di cori, di danze, di nacchere egiziane, che rintrona con cembali e tamburi e assorda con gli strumenti di un'ingannevole seduzione. Una tale riunione, a mio avviso, diventa semplicemente un teatro dell'ebbrezza. Spogliamoci delle opere delle tenebre, afferma l'Apostolo, e indossiamo l'armatura della luce, camminando in pieno giorno con dignità e non perdendo tempo in danze sfrenate, ubriachezza, letti impudichi e turpitudini. Che la zampogna sia dunque lasciata ai pastori e il flauto agli uomini che credono nei demoni e corrono ad adorare gli idoli. Tali strumenti devono senz'altro essere aboliti da un convito sobrio, poiché si addicono più alle bestie che agli uomini, e tra gli uomini si addicono a quelli più privi di logos. Abbiamo sentito dire, infatti, che i cacciatori richiamano i cervi con il suono delle zampogne e li attirano nelle trappole con la melodia, e che anche ai cavalli, quando si accoppiano, viene suonata, a guisa di Imeneo, un'aria per flauto. I musici la chiamano monta dei cavalli, ippotoros. Bisogna eliminare senza esitazioni tutto ciò che nella vista e nell'udito sia indegno di persone libere e, detto in poche parole, procuri nell'anima turpi stimoli all'incontinenza. Ma questi stimoli in realtà sono una sorta di anestesia dell'anima. Bisogna guardarsi da ogni piacere che stuzzichi ed effemini gli occhi e le orecchie. Veleno ammaliante dagli innumerevoli tentacoli sono le melodie strazianti e i ritmi gementi della musica caria che corrompono i costumi e con canti lascivi e malsani trascinano nelle passioni. La musica liturgica, vocale o strumentale. Distinguendo bene da queste sfrenatezze la divina liturgia, lo Spirito dice nel Salmo: «Lodatelo con suono di tromba, poiché in vero sarà con suono di tromba che egli risusciterà i morti. Lodatelo con la cetra, la lingua è la cetra del Signore. E con la lira lodatelo, dove per lira si deve intendere la bocca fatta vibrare dallo Spirito come da un plettro. Con il tamburo e con il coro lodatelo», si riferisce alla Chiesa che sulla pelle risuonante del tamburo celebra la risurrezione della carne. «Con corde e con organo lodatelo». L'organo è il nostro corpo e le corde sono i suoi nervi, dai quali esso ha ricevuto una armoniosa tensione e, fatto vibrare dallo Spirito, emette umane melodie. Lodatelo con cembali di giubilo. Chiama cembalo la lingua che è nella bocca e che risuona per l'azione delle labbra. Perciò egli ha proclamato all'umanità: ogni soffio di vita dia lode al Signore, poiché egli ha steso la sua provvidenza su ogni soffio da lui creato. L'uomo è uno strumento musicale di pace. Chi invece anela ad altro inventerà strumenti di guerra che alimentano i desideri, incendiano la sensualità o scatenano l'aggressività. In guerra usano la tromba i tirreni, gli arcadi invece usano la zampogna, i siculi l'arpa, i cretesi la lira, i lacedemoni il flauto, i traci il corno, gli egiziani il tamburo e gli arabi il cembalo. Noi invece, per dar gloria a Dio, ci serviamo di un solo strumento, il logos della pace, e non ricorriamo più alla vecchia cetra, alla tromba, al tamburo e al flauto. Queste cose erano in uso nelle riunioni presso coloro che si esercitavano alla guerra, gente che non faceva alcun conto del timore di Dio, e che, con i ritmi di tali strumenti, cercava di risollevare l'animo scoraggiato. La nostra amabilità, quando si beve in compagnia, sia duplice, secondo la legge di Dio. Dapprima, infatti, dice: «Amerai il Signore tuo Dio», e poi «e il tuo prossimo». La prima forma di amabilità sia quindi quella che consiste nel ringraziare e lodare Dio. La seconda, invece, quella verso il prossimo, consista in un parlare onesto e dignitoso. «Che la parola Logos del Signore dimori in voi copiosamente», dice l'Apostolo. Questo Logos, infatti, si adatta e si conforma alle diverse circostanze di tempo, alle persone, ai luoghi. Ora lo stiamo considerando mentre partecipa a un banchetto. L'Apostolo prosegue: «Istruitevi e ammonitevi in tutta sapienza, con salmi, inni e cantici spirituali, nella grazia, cantando a Dio nei vostri cuori. E tutto ciò che fate, sia in parole che in opere, fatelo nel nome del Signore Gesù, ringraziando colui che è Dio e Padre suo». Questa dunque è la nostra festa di ringraziamento. Ma se vuoi cantare e salmeggiare con la cetra o con la lira, non vi è biasimo in ciò. Imiterai il giusto re ebreo David, che così rendeva grazie a Dio. «Esultate, o giusti, nel Signore. Ai retti si addice la lode», dice il testo profetico. «Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa, 10 corde inneggiate a Lui, cantate a Lui un canto nuovo». Forse qui l'arpa a 10 corde designa il Logos Gesù, indicato con la lettera del numero 10. I canti dei salmi e le canzoni profane. Ora, come è giusto che prima di prendere cibo benediciamo il Creatore di tutte le cose, così è doveroso lodarlo con salmi, anche quando si beve, dal momento che prendiamo qualcosa di ciò che Egli ha creato. Il salmo è una benedizione melodiosa e saggia. Per questo l'Apostolo ha definito il salmo un cantico spirituale. Specialmente poi, prima di andare a dormire, è sacro dovere ringraziare Dio per la sua grazia e il suo amore di cui abbiamo goduto durante la giornata. Così potremo prendere sonno rimanendo in Dio. «Lodatelo con i canti delle vostre labbra», dice, «poiché al suo comando tutto avviene come egli vuole e non vi è difetto alcuno nel suo agire salvifico». Anche tra gli antichi greci, durante i simposi, quando le coppe erano piene, si intonava un canto chiamato skolion, sull'esempio dei salmi ebraici, e tutti insieme cantavano ad una sola voce, oppure talvolta si alternavano a mano che ciascuno beveva alla salute dei convitati. Quelli poi che erano più abili nella musica si accompagnavano anche con la lira. Ma lontano da noi le canzoni erotiche, i nostri canti siano gli inni di Dio. «Lodino il suo nome con cori», dice la scrittura, «inneggino a lui con timpano», eccetera. Quale sia il coro inneggiante ce lo spiega lo Spirito. «La sua lode è nella chiesa dei santi, esultino nel loro re», e poi aggiunge: «poiché il Signore si compiace del suo popolo». Si devono accogliere pertanto solo le melodie caste, cacciando via invece il più lontano possibile dal sano vigore del nostro animo quelle melodie molli e sensuali che, con le loro inflessioni di un'arte malsana, trasformano i costumi delle persone rendendoli effeminati e volgari. Del resto, la petulanza dell'ubriachezza porta ad accantonare le musiche austere e caste. Lasciamo le melodie sfavillanti di colori agli ambienti dove regnano lo spudorato eccesso del vino e le musiche inghirlandate di fiori e adatte alle prostitute. Il riso. Le persone che imitano gli stati d'animo che fanno ridere, ovvero più esattamente quelle passioni ridicole e degne di derisione, devono essere espulsi dalla nostra società cristiana. Le parole, infatti, procedono sempre dalla mente e dall'indole, e perciò è impossibile che qualcuno pronunci parole ridicole senza avere un'indole ridicola. A ciò, infatti, si applica quel che sta scritto: «Non c'è albero buono che produca un frutto malato, né albero malato che produca un frutto buono». E la parola è appunto il frutto della mente. Ora, se dobbiamo cacciar via dalla nostra società coloro che provocano al riso, saremo ben lungi dal permetterci noi stessi di provocare al riso. Sarebbe assurdo, infatti, se ci trovassimo ad essere imitatori di coloro a cui è proibito perfino prestare ascolto. E ancora più assurdo è che ci si adoperi a diventare ridicoli, cioè degni di disprezzo e di derisione. Noi non sopporteremmo di assumere un comportamento ridicolo, come si vede in alcuni durante le sfilate. Come possiamo allora ragionevolmente lasciare che il nostro uomo interiore abbia un atteggiamento ancora più ridicolo? E se neppure muteremmo volentieri il nostro volto in uno più ridicolo, come possiamo studiarci di essere e di apparire ridicoli nelle parole, esponendo alla burla il bene più prezioso dell'uomo, ossia la parola, logos? È davvero una sciocchezza adoperarsi di far ridere, quando il parlare di cose ridicole non merita neppure di essere ascoltato. Un discorso simile, infatti, attraverso le parole stesse, abitua ad azioni vergognose. Pertanto noi dobbiamo essere amabili, ma non buffoni. Al riso stesso, del resto, deve essere messo un freno. Anch'esso, infatti, se manifestato in modo conveniente, esprime decoro, ma se non si presenta così, allora è segno di sregolatezza. Insomma, ciò che fa parte della natura dell'uomo non gli deve essere sottratto, ma bisogna piuttosto fissargli una giusta misura e un tempo adatto. L'uomo è un animale capace di ridere, ma non per questo bisogna ridere di tutto. Neppure il cavallo, che sa nitrire, nitrisce continuamente. In quanto animali razionali dobbiamo regolare noi stessi secondo un giusto equilibrio, allentando armoniosamente ciò che vi è di severo e di teso nei nostri propositi, ma non lasciando totalmente la corda fino alla disarmonia. La graziosa e armonica distensione del volto, simile a quello di uno strumento musicale, si chiama sorriso. Si diffonde su tutto il riso e questo è il riso delle persone sagge. Invece, quel distendere completamente il volto fino alla disarmonia, se avviene nelle donne, è detto risata sguaiata, che è il ridere tipico delle prostitute. Se avviene negli uomini, si chiama risata volgare, che è il ridere arrogante dei pretendenti. Lo stolto, quando ride, alza la voce, dice la scrittura. Il dotto, invece, sorride pacatamente. Il dotto, quindi, è saggio, in contrapposizione allo stolto. Non bisogna, però, neppure essere cupi, basta essere riflessivi. Approvo pienamente quel tale, Aiace, che appariva sorridente col volto grave. Il suo riso, infatti, sarebbe meno ridicolo. Anche il sorriso, invero, necessita di essere educato. Quando si ha a che fare con cose turpi, c'è piuttosto da arrossire che da sorridere, affinché non sembri che, simpatizzando, anche noi ci compiaciamo di quelle cose. Se invece si tratta di cose tristi, è giusto avere un'espressione afflitta e non gioiosa. Il primo atteggiamento, infatti, è indizio di un sentimento troppo umano, il secondo può essere sospettato di malignità. Inoltre, non bisogna ridere sempre, sarebbe una mancanza di misura, né alla presenza di persone più anziane o comunque degne di rispetto, a meno che non siano essi stessi a dire qualche simpatica leggerezza per alleggerirci l'animo, né bisogna ridere a chiunque incontriamo, né in ogni luogo, né a tutti, né su tutto. Soprattutto per gli adolescenti e le donne, poi, il ridere diventa occasione di biasimo. Già un aspetto austero, che si vede da lontano, mette in fuga i tentatori, poiché la gravità, quando appena la si scorga, è capace di respingere gli assalti dell'impudicizia. Tutti gli stolti, invece, per così dire, il vino li spinge a molle riso e a balli, e conduce sulla strada della lascivia chi ha già un'indole effeminata. A partire da qui bisognerà ora esaminare come un'eccessiva libertà di parola accresca la maleducazione, fino ad arrivare al turpiloquio, e proferì parole che avrebbe fatto meglio a non dire. È soprattutto durante l'ubriachezza che si può osservare la natura di quelle piaghe purulente, esteriormente attraenti, ma ora spogliate di questo inganno delle apparenze sotto l'effetto del vino abbondante che porta all'eccessiva licenza, indegna di un uomo libero, a causa della quale il Logos all'interno dell'anima si assopisce e abominevoli passioni si risvegliano assoggettando alla loro tirannia la debolezza dell'anima razionale. Il turpiloquio. Noi dobbiamo astenerci totalmente dal turpiloquio e a quelli che lo usano dobbiamo porre un freno. Voi con uno sguardo severo, voi con il distogliere il volto, voi con quella che si suol chiamare aria sprezzante, oppure sovente anche con parole dure. Sta scritto infatti, è ciò che esce dalla bocca che contamina l'uomo e lo mostra profano, pagano, senza educazione, licenzioso e non invece distinto, dignitoso e saggio. Il divino pedagogo, sull'esempio dei ragazzi che fanno la lotta e per non ferirsi le orecchie si mettono dei paraorecchi, ci circonda di parole caste, come fossero paraorecchi, per proteggerci dall'udire o vedere cose turpi. In tal modo, il colpo dell'impudicizia non riesce a raggiungere e a ferire l'anima. Quanto agli occhi, egli ce li dirige verso la vista delle cose buone, asserendo che è meglio scivolare con i piedi che con gli occhi. Respingendo il turpiloquio, l'Apostolo dice: «Nessuna parola, Logos, corrotta esca dalla vostra bocca, ma solo parole buone». E ancora, come si addice ai santi, «non si pronunci tra voi alcuna parola turpe, sciocca o triviale». Ciò non è permesso, piuttosto si renda grazie. Se colui che dice sciocco a suo fratello è condannato in giudizio, che cosa ne sarà di colui che dice sciocchezze? Per questo sta anche scritto: chi pronuncerà una parola oziosa ne renderà conto al Signore nel giorno del giudizio. E ancora, in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Quali sono dunque i paraorecchi salutari? E quali gli ammaestramenti educativi per gli occhi inclini a scivolare? Sono la frequentazione di persone rette e il chiudersi preventivamente le orecchie di fronte a chi cerca di distogliere dalla verità. I cattivi discorsi corrompono i buoni costumi, dice il poeta, e in termini più elevati l'Apostolo afferma: detestate il male e aderite al bene. Infatti, chi frequenta i santi si santificherà. Bisogna quindi astenersi totalmente dall'ascoltare, dire o vedere cose turpi e a maggior ragione ci si deve custodire puri da azioni turpi, ad esempio il mostrare e denudare certe parti del corpo che non si devono mostrare, oppure il guardare le parti intime. Neppure quel figlio casto, Sem, si permise di posare lo sguardo sulla nudità del giusto, Noè, in quanto appunto era cosa turpe. La sua castità ricoprì ciò che aveva denudato l'ebbrezza, visibile fallo dovuto all'ignoranza. Dobbiamo ugualmente mantenerci puri dalle insinuazioni di voci e suoni a cui le orecchie di coloro che hanno creduto in Cristo devono rimanere impenetrabili. Per questo, mi pare, il pedagogo non ci consente di pronunciare alcunché di indecente, infondendo in noi grande inimicizia verso la dissolutezza. Egli, infatti, è davvero esperto nell'estirpare le radici stesse dei peccati. Non commetterai adulterio viene sradicato da non bramerai. L'adulterio, infatti, è il frutto di una radice cattiva, la brama. Similmente, anche in questo caso, il pedagogo ha vietato l'uso sconcio delle parole per eliminare la sconcia promiscuità dovuta al permissivismo. Infatti, l'indisciplinatezza nelle parole porta a desiderare la sregolatezza anche nei fatti, mentre il custodire casta la lingua è un esercizio di resistenza contro la lussuria. Abbiamo già spiegato in maniera più approfondita che ciò che si suol chiamare turpe non consiste né nelle parole in sé, né negli organi sessuali o nell'amplesso coniugale, per le quali cose esistono anche parole non utilizzate nell'uso comune. D'altronde, le parti del corpo come il ginocchio o la gamba non sono turpi, né sono turpi la loro funzione o le parole che le designano. E neppure le pudenda dell'essere umano sono degne di vergogna, come di cosa turpe, ma solo di pudore. Ciò che invece è turpe è il loro uso illecito e questo è degno di vergogna, di biasimo e di castigo. L'unica cosa veramente turpe è la malizia e le azioni che essa fa compiere. Analogamente si può dire che il turpiloquio è, con ogni evidenza, il parlare delle opere della malizia, come ad esempio dell'adulterio, della pederastia e di cose simili. Ma bisogna mantenere il silenzio anche rispetto alle chiacchiere inutili. Per il molto parlare non sfuggirai al peccato, dice. La loquacità, infatti, incorrerà nella condanna. Vi è uno che tace, si troverà che è saggio. Vi è invece l'uomo disprezzato a causa del suo molto parlare. Il loquace, invero, diventa fastidioso persino a se stesso. Chi abbonda nelle parole è nauseato dalla sua anima.